Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. In fiamme il camper di una famiglia rom a Roma, morte tre sorelle, la più piccola di 4 anni. Avevamo ricevuto minacce, raccontano i superstiti. Si indaga per omicidio volontario. Migranti, indagini su alcuni membri di una ONG, fa sapere la procura di Trapani, salvataggi anche senza il controllo della guardia costiera. La misura è colma, parola ai miei legali, dice Maria Elena Boschi dopo le indiscrezioni su un suo interessamento perché Unicredit acquistasse Etruria. Scontro negli Stati Uniti dopo che Trump ha silurato il capo dell'FBI, sospetti per il dossier sulla Russia curati da Comey. Gioielliere ucciso nel napoletano, c'è un indagato, ha fermato un uomo pregiudicato in un hotel di Ischia, interrogatorio in corso. È morto a Ibiza Robert Miles, celebre DJ italo-svizzero, diventò famoso con Children e fu l'unico italiano a vincere un Brit Award. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 è il numero per gli sms, per i messaggi su WhatsApp, e siamo anche in diretta sulla pagina Facebook di Radio 24, appunto la pagina Facebook di Radio 24, e tra un attimo saremo anche in diretta sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno. In apertura dunque parliamo di questo incendio di un camper a Roma, un incendio nel quale hanno perso la vita tre sorelle di etnia rom, tra loro due bambine. Roberta Pellegatta, buongiorno. Sì, buongiorno. Le tre sorelle si chiamavano Elisabeth, Francesca e Angelica. La maggiore aveva 20 anni, le altre due, come hai detto, erano bambine di 8 e di 4 anni. Dormivano con il resto della famiglia Alinovic, di etnia rom, genitori e 11 figli, in questo camper parcheggiato in via Mario Ugo Guattari, nel parcheggio di un supermercato a Centocelle, quando, stando al racconto di vicini, intorno alle 3 della notte si è sentito un boato e le fiamme si sono levate. Alcuni membri della famiglia sono usciti da soli, altri sono stati aiutati dai vigili del fuoco, ma per le bambine e per la ragazza non c'è stato nulla da fare. La procura di Roma ha aperto un fascicolo in cui si procede, oltre che per incendio doloso, anche per omicidio volontario, perché all'esterno del camper che è andato a fuoco, è stato completamente distrutto, sono state scoperte tracce di liquido infiammabile. La polizia cerca testimoni, al vaglio ci sono anche le immagini delle telecamere della zona, e intanto i sopravvissuti rivelano di aver ricevuto minacce di recente. I residenti della zona ammettono che da tempo c'è intolleranza nei confronti dei rom a causa dei continui furti di icone e di sporcizio ovunque. Un cittadino del quartiere ha fatto inoltre sapere di un camper, di un altro camper andato a fuoco di recente, venerdì scorso in zona, ma fortunatamente questo camper era vuoto. Si indaga dunque sul movente, ovvero se sia stato un gesto razzista oppure un atto maturato all'interno della comunità rom. Quello che è certo è che a pagare sono stati ancora una volta bambini del tutto innocenti. E grazie dunque a Roberta Pellegatta per questo aggiornamento. Se avremo maggiori aggiornamenti nel corso della puntata, naturalmente ve li daremo su questa vicenda che è ancora in evoluzione, soprattutto dal punto di vista delle indagini. Ora torniamo a parlare di migranti e di ONG. A intervenire oggi in Parlamento è stato il procuratore di Trapani. Sentiamo. C'è la storia di chi fugge, chiede aiuto, ci sono i trafficanti, gli agenti libici corrotti e un business dell'accoglienza che in alcuni casi è gestito dalla mafia. E non è escluso che anche all'interno delle organizzazioni non governative vi siano persone fisiche sulle quali sono aperte indagini con ipotesi di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ma non ci sono indagini aperte sulle ONG. Una storia complicata raccontata in audizione alla Commissione Difesa del Senato dal procuratore aggiunto di Trapani, Ambrogio Cartosio. Soluzioni facili in questo problema non esistono. Se una nave di una ONG, una nave mercantile, viene messa al corrente del fatto che c'è un'imbarcazione nella quale alcune persone rischiano concretamente l'annegamento, questa imbarcazione può e deve essere soccorsa. In quale punto si trovi non ha alcuna importanza. Indagini, continua il magistrato, che non hanno fatto emergere reati di competenza della procura distrettuale antimafia. ONG a testa alta, così hanno chiamato la conferenza stampa indetta questa mattina dalle organizzazioni non governative per difendersi dalle accuse. Vincenzo Manco, portavoce del forum del terzo settore. Noi oggi certo abbiamo il bisogno di affermare che non siamo disponibili ad accettare nessun attacco indiscriminato. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E intanto un'indagine smaschera un'organizzazione di trafficanti con rapporti anche col terrorismo jihadista. Trafficanti di uomini, di migranti somali, che tramite Facebook avevano contatti con filo jihadisti vicino al gruppo terroristico somalo Al-Shabaab. Fra Bari, Salerno, Catania e Malta, l'operazione Awalanet, con cui la polizia di Bari, coordinata dalla DDA, ha sgominato un'organizzazione di presunti trafficanti di uomini, accusati di associazione per delinquere finalizzata alla permanenza illegale di clandestini in Italia ed al successivo ingresso in paesi esteri, favoreggiamento di immigrazione clandestina a scopo di lucro, uso di documentazione falsa, corruzione di incaricato di pubblico servizio, falso ideologico in atto pubblico. Le indagini hanno scoperto che i trafficanti utilizzavano illegalmente il money transfer per incanalare le somme inviate dalle famiglie dei migranti per l'organizzazione dei loro viaggi verso il nord Europa, secondo il sistema dell'Awala informatica, cioè rimesse di denaro e di compensazioni tra agenzie in Italia e dall'estero, basate sulla fiducia degli intermediari. E c'era anche un impiegato del comune di Bari nell'organizzazione. Avrebbe accettato denaro per dichiarare residenze false dei somali nel capoluogo pugliese. Lucia De Mari, Radio 24, Il Sole 24. 4 ore Bari. E veniamo allo scontro politico ancora aperto dopo le parole di Ferruccio De Bortoli nel suo ultimo libro, nel quale si parla di una richiesta di Maria Elena Boschi ad Unicredit perché si interessasse di Banca Etruria. Oggi torna a parlare la sottosegretaria Boschi, appunto. Elisabetta Fiorito per Un Punto. Buongiorno Elisabetta. Sì, buongiorno. Maria Elena Boschi smentisce qualsiasi coinvolgimento su Banca Etruria, mentre i grillini indicano una conferenza stampa qui a Montecitorio per chiedere le dimissioni del sottosegretario. Il nuovo scontro dopo le rivelazioni del libro di Ferruccio De Bortoli, Poteri Forti, in cui l'ex direttore del Corriere scrive che Boschi, allora ministro del governo Renzi, si rivolse nel 2015 a Federico Ghizzoni, AD di Unicredit, per chiedere di valutare una possibile acquisizione di Banca Etruria. Ghizzoni incaricò un suo collaboratore e poi decise di lasciar perdere. Questa mattina è intervenuta Boschi, che annuncia querele. Sentiamo. Sulla vicenda sono già intervenuta in Parlamento il 18 dicembre del 2015 e ribadisco, confermo quanto detto in Parlamento rispetto alla vicenda. Credo che la misura sia colma, sinceramente, quindi con molta tranquillità da qui in poi si occuperanno di questa questione i miei legali e quindi saranno loro, se necessario, a fornire altri aggiornamenti. E sta per iniziare la conferenza stampa di Roberto Fico qui a Montecitorio, i grillini all'attacco per Luigi Di Maio e Renziani hanno effettato le istituzioni democratiche, per Alessandro Di Battista Boschi è una bugiarda cronica. L'allora ministra dei rapporti con il Parlamento intervenne, ricordiamo, nell'aula di Montecitorio per smentire coinvolgimenti nella banca in cui nei vertici c'era suo padre. Fonti di Unicredit negano il coinvolgimento, ma tace Ghizzoni, che non è più amministratore delegato di Unicredit. Testimone. E grazie dunque ad Elisabetta Fiorito anche per questo aggiornamento. Vedremo come evolverà questa vicenda politica. Noi andiamo all'estero per un'altra vicenda politica di tutt'altro tipo, è quella che riguarda il presidente americano che ha silurato il capo dell'FBI tra, appunto, mille polemiche e mille scontri. Sentiamo. Sei licenziato. Così come faceva nel reality show di cui era protagonista, il presidente americano Donald Trump ha sbrigativamente rimosso dal suo incarico il capo dell'FBI James Comey, il cui mandato scadeva in realtà nel 2023. La decisione è stata annunciata con un comunicato della Casa Bianca. La rimozione sarebbe stata consigliata dal ministro della Giustizia, Jeff Sessions, secondo il quale il direttore dell'FBI deve essere qualcuno che segue fedelmente le regole e i principi del Dipartimento di Giustizia. Ufficialmente a Comey è stato dato il ben servito per come ha gestito lo scandalo sulle email di Hillary Clinton durante la campagna elettorale. Ma pare che dessero fastidio piuttosto le sue recenti indagini sui presunti rapporti fra lo staff di Trump e Mosca. Pochi giorni fa, Comey aveva testimoniato davanti alla commissione di Capitol Hill proprio sulle possibili relazioni tra il comitato elettorale che ha gestito la campagna di Trump e il governo russo. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Restiamo all'estero. In Francia a dominare la scena è la vicenda di Valls. Dopo le parole dei giorni scorsi, nelle quali dichiarava morti i vecchi partiti, annunciava la sua candidatura con En Marche, il movimento del presidente Macron, l'ex primo ministro è sotto procedura di espulsione del suo partito, quello socialista. Intanto però En Marche ha respinto l'ipotesi della sua candidatura. A ce jour, il n'est pas dans les critères d'acceptation. Respinto al mittente. Il tentativo di Manuel Valls, ex premier ed ex aspirante presidente francese socialista, di riciclarsi nel movimento politico di Emmanuel Macron en marche, frana miseramente sulle parole di Jean-Paul Delevoye, incaricato dallo stesso Macron di definire le liste di candidati per le elezioni parlamentari di giugno. Dopo aver rotto una prima volta coi socialisti, sostenendo la candidatura di Macron, Valls aveva pubblicamente firmato il divorzio dal suo partito 2 giorni dopo il trionfo del candidato di En Marche, annunciando in radio la sua volontà di presentarsi col nuovo movimento, una scelta che non ha pagato. Il giorno dopo, Delevoye ha gelato ogni speranza. Al momento la richiesta di investitura di Manuel Valls non soddisfa i criteri per l'accettazione da parte di En Marche. Come se non bastasse, Delevoye aggiunge che per la circoscrizione di Valls c'è già una candidata e che la Repubblica En Marche non ha la vocazione di riciclare politici uscenti. Dietro le parole si intravede la vendetta servita fredda dello stesso Macron, con cui Valls ha avuto rapporti a tratti burrascosi quando quest'ultimo era premier e l'attuale presidente eletto ministro dell'economia. Vicini sui temi economici, la pensano diversamente su molte altre questioni, anche a causa della visione più autoritaria di Valls, che avrebbe più volte provato a umiliare il collega rivale Macron anche pubblicamente. Chi la fa? L'aspetti. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ancora politica e ancora altre presidenziali in un altro luogo del mondo, in Corea del Sud, un'elezione che rischia di essere parecchio importante per quanto riguarda alcuni equilibri geopolitici, quelli appunto nei rapporti tra le due Coree e quindi anche presumibilmente tra la Corea del Nord e il resto del pianeta. Sentiamo. Io potrei andare a Pyongyang. Il nuovo presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, ha subito dato segnali di cambiamento nella politica del paese, aprendo alla possibilità di un dialogo diretto con il Nord, dopo settimane di aspre tensioni internazionali. Farò il possibile per la pace nella penisola, ha detto il nuovo presidente, e per questo sono disposto ad andare subito a Washington, Pechino, Tokyo e anche a incontrare il leader nordcoreano Kim Jong-un se ci saranno le condizioni. Moon è stato eletto ieri e si è subito insediato oggi come capo dello Stato e del governo, senza alcun periodo di transizione, in quanto il paese viveva uno stato di semiparalisi istituzionale dopo la destituzione, per uno scandalo di corruzione, dell'ex presidente Park, oggi in galera. Moon ha anche promesso di affrontare i problemi dell'economia, rilanciando il welfare e promuovendo una riforma dei grandi conglomerati. Stefano Carrer, Radio 24, Sole 24 Ore, Seul. È in corso il primo incontro con la stampa dei commissari di Alitalia. Lo sta seguendo Teresa Trillò. Teresa, buongiorno. Che cosa buongiorno. Sta emergendo? Eccoci, vai. Salve, allora, i tre commissari, innanzitutto la conferenza stampa è terminata da pochissimi minuti. I tre commissari, Laghi, Paleari e Gubetosi, hanno spiegato che si prefiggono dei tempi rapidissimi per trovare una soluzione per la compagnia, che ha detto Laghi. Allora Teresa, Teresa, ti interrompo perché abbiamo un audio pessimo, quindi vediamo un attimo se riusciamo a recuperarti. Nel frattempo andiamo sulla cronaca e andiamo a sentire che cosa succede nelle indagini sull'omicidio di un gioielliere nel napoletano. Sentiamo. È nella caserma dei carabinieri di Giuliano la persona rinsacciata in un hotel di Schiaporto e che secondo i militari potrebbe essere a conoscenza di fatti utili per l'evoluzione delle indagini sull'uccisione del gioielliere Salvatore Galla ritrovato ieri nel suo negozio nel centro di Marano, comune alle porte di Napoli. Almeno in apparenza la morte dell'uomo sembra motivata da una rapina, ma non si escludono altre cause, non ultimo un regolamento di conti. I carabinieri hanno lavorato per ricostruire la vita del gioielliere 43enne, hanno individuato una persona che da ieri pomeriggio era a Ischia e nella notte è stata condotta a Giuliano. Non possiamo ancora parlare di un indagato, ma sicuramente c'è attesa per la fine dell'interrogatorio del magistrato incaricato. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. Abbiamo recuperato Teresa Trillò dalla presentazione alla stampa di Alitalia. Teresa, eccoci, vai. Sì, salve. Allora, dicevamo che i tre commissari, Laghi, Paleari e Gubitosi, hanno spiegato che si prefiggono dei tempi rapidissimi per trovare una soluzione per la compagnia, anche perché ricordiamo che il commissariamento è per 180 giorni. La compagnia Alitalia può già contare sulla prima tranche da 220 milioni del prestito ponte da 600 milioni garantito dal governo per la continuità aziendale, ha detto Laghi. E entro il 17 maggio sarà pubblicato il bando per le manifestazioni di interesse per l'acquisto della compagnia. Poi entro metà giugno 10 dovrebbe essere la data room per studiare le carte. Quindi i tre commissari si aspettano offerte non vincolanti entro metà luglio. Il bando sarà ad amplissimo spettro, hanno spiegato i commissari, e poi si valuterà cosa fare sulla base delle offerte arrivate. Tre commissari stanno anche lavorando sul nuovo piano industriale, hanno spiegato che entro giugno valuteranno il vecchio piano industriale, quello bocciato dai sindacati, che prevedeva circa 2000 esuberi, e quindi un nuovo piano industriale potrebbe essere pronto entro luglio. Per il momento è tutto da Fiumicino. Grazie a Teresa Trillò per questo aggiornamento. Adesso, prima di andare a calcio, parliamo di musica, in realtà per una notizia triste. Questo pezzo più o meno lo conoscete tutti, no? È un pezzo del 1996, si chiama Children, diventò un successo internazionale, 5 milioni di copie vendute nel mondo, uno dei più grandi successi di quel pezzo di dance music che viene chiamata trance. Il suo autore è morto questa notte a 47 anni, Robert Miles, anche questo nome lo conoscete, il suo vero nome era Roberto Concina, DJ e produttore svizzero, in realtà di nascita ma di origini italiane. Il primo album di debutto, Dreamland, lo impose sulla scena dance mondiale, vendette 1 milione di copie in Europa, 500.000 tra Stati Uniti e Canada, e ha ottenuto riconoscimenti prestigiosi come il Brit Award. È stato l'unico italiano finora ad averlo ottenuto, figlio di genitori italiano, era nato in Svizzera ma poi era tornato a vivere in provincia di Udine. Ed è morto, l'abbiamo appreso appunto, a 47 anni di tumore ad Ibiza. Questo lo spazio, per così dire, dedicato alla musica. Cambiamo decisamente argomento e parliamo di qualcosa di decisamente più allegro, il calcio, e anche qua partiamo da un audio. Allora, questa è la festa nello spogliatoio, ripresa da Bonucci e messa, o dal suo social media manager, non lo sappiamo, e messa su Instagram, dei festeggiamenti per la vittoria di ieri della Juventus, che appunto ha dunque Dario Ricci staccato, e tu eri là tra l'altro ieri, ha staccato il biglietto per Cardiff appunto, no? Sì, beh, la colonna sonora qui ad obbligo è l'inno della Champions, Juventus che ha meritatamente, direi, conquistato sul campo il diritto all'ennesima finale di Champions. Il palmarès finora, lo sai, no? Piange abbastanza perché 8 finali, 6 sconfitte, ma è bello intanto arrivarci e andarsela a giocare molto probabilmente contro il Real Madrid, che quella coppa la detiene e che stasera dovrebbe portare a casa senza troppi problemi nel derby con l'Atletico la qualificazione, visto il 3-0 tutto firmato da Cristiano Ronaldo dell'andata. Direi che sarà sfida a 5 stelle, ovviamente, con tanti incroci. Basti pensare all'ex del Barcellona Dani Alves, stratosferico in quest'ultimo mese di gioco contro i madridisti. Ma intanto questi sono i giorni decisivi per la stagione bianconera, visto che domenica c'è il potenziale big match scudetto con la Roma all'Olimpico, e sarà curioso vedere che formazione metterà in campo Allegri, che potrebbe anche sacrificare questo big match alla ragion di Stato che si chiama finale di Coppa Italia, sì. Perché essendosi qualificata ieri la Juventus, la finale di Coppa Italia viene anticipata al 17 maggio, a mercoledì prossimo, sì, contro la Lazio, e allora quindi, e vado a chiudere, e si potrebbe ragionare nell'ottica di Allegri che varrebbe la pena sacrificare la sfida con la Roma ad un turnover per poi prendersi lo scudetto col Crotone in casa la domenica successiva. Allora Dario, io ti ringrazio per tutto lo psicodramma interista, vogliamo rimanere sulle cose leggere, per tutto lo psicodramma interista vi rimando a tutti i convocati a partire dalle 14, andiamo a sentire cosa succede sulle strade, ci ritroviamo subito dopo e partiamo da Roma, partiamo però dalla vicenda dei rifiuti, parleremo con l'assessore all'ambiente del Comune di Roma, perché ci sono tante accuse che si riversano su di loro, dall'altra parte accuse che fa la giunta romana e dice c'è una sorta di complotto, per così dire, per questa crisi dei rifiuti a Roma in questo momento. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia e sempre in diretta anche sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno, così come su quella di Radio 24, in diretta video naturalmente. Nella prima parte della trasmissione ci siamo occupati di questa vicenda terribile che arriva da Roma, dove è andato bruciato il camper di una famiglia rom. Sono morte tre sorelle, di cui due bambine, la più piccola aveva 4 anni. Avevamo ricevuto minacce, hanno raccontato i superstiti, si indaga per omicidio volontario, vedremo come evolveranno le cose. Abbiamo parlato di migranti perché ci sono indagini su alcuni membri di una ONG, fa sapere la procura di Trapani. Ci siamo occupati della vicenda che riguarda Maria Elena Boschi e Banca Etruria dopo le rivelazioni contenute nel libro di Ferruccio De Bortoli degli Stati Uniti e del siluramento del capo dell'FBI. Adesso nel nostro giro per l'Italia iniziamo proprio da Roma per parlare però di rifiuti. Pinuccia Montanari, assessore alla sostenibilità ambientale del Comune di Roma, buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno e grazie a voi. Allora, qua ci sono due versioni, no? Da una parte c'è chi dice, e lo fa la persona che l'ha preceduta in questo incarico, Paola Muraro, intervistata oggi dalla Repubblica, dice insomma qua ci sono un sacco di incompetenti e si finisce regolarmente in emergenza rifiuti a Roma perché il sistema è estremamente fragile, quindi basta che si blocchi un impianto perché salti tutto il sistema e la città si trovi invasa dai rifiuti. Dall'altra parte mi sembra di aver capito che sia stato evocato dalle vostre parti, alle parti della giunta, una sorta di complotto, per così dire. Ma c'è davvero questo complotto? Non c'è? C'è qualcuno che vuole sabotarvi? No, guardi, allora in primo luogo vorrei dire che io sono arrivata il 23 dicembre e non ho trovato il piano che era necessario fare subito, e questa è la prima risposta che vorrei dare. Noi appena arrivati, cioè dal 23 dicembre al 30 di marzo, abbiamo elaborato il piano, perché è necessario oggi fare una previsione, diciamo a breve, medio e lungo termine per la gestione dei rifiuti a Roma. Consideri che a Roma non c'era un piano. Ecco, allora quello che noi abbiamo fatto, e l'abbiamo fatto a partire da dicembre, è stato quello di elaborare subito un piano che ci dice come risolvere i problemi a breve, medio e lungo termine. Mi scusi, ma quindi la Muraro, mi scusi Montanari, la Muraro non aveva elaborato un piano? Cioè... No, non c'era un piano e quindi noi abbiamo approvato in giunta, dopo averlo appunto elaborato, il piano per la gestione sostenibile di quelli che noi chiamiamo appunto i materiali post-consumo. E questo è il primo punto, perché la pianificazione è la vera risposta al problema delle emergenze che si sono poste negli anni, ormai da 20 anni, su Roma, perché Roma ha investito sempre sulle discariche, sulla discarica di Malagrotta. Mancando un piano per la raccolta differenziata e anche per la riduzione e anche per l'impiantistica, mancando un piano, ovviamente la città ha sempre vissuto ciclicamente queste emergenze. Noi siamo in una fase di transizione. In questa fase di transizione, a causa, vorrei dire, anche appunto dell'interdittiva antimafia che hanno subito i due impianti di Malagrotta 1 e Malagrotta 2, cioè gli impianti di Colari, si è creata questa situazione tale per cui, e mancando anche qui a livello regionale una capacità di rispondere al fabbisogno impiantistico, c'è stato un rallentamento nel sistema di raccolta che ha causato le criticità che noi oggi stiamo tentando di Montanari. Dall'altra parte la regione risponde: guardate, non è una carenza nostra, e Zingaretti lo ribadisce anche oggi, dice: guardate, se voi ci date un'idea, noi abbiamo, come dire, braccia aperte, braccia spalancate alle idee sull'impiantistica che possono arrivare dal Comune di Roma. Abbiamo fatto diversi incontri appunto interistituzionali e devo dire questo, che noi la regione dal 2012 deve fare un piano appunto, deve aggiornare il proprio piano rifiuti. Noi abbiamo approvato il nostro, AMA ha approvato il piano industriale. Nel nostro piano noi abbiamo previsto, come la regione sa benissimo, 3 impianti per la gestione dell'organico fino a 200.000 tonnellate di rifiuti, che naturalmente cercheranno e saranno il sistema per risolvere il problema appunto della gestione particolare, allora, dell'organico. Allora Montanari, ci sono, Montanari, allora Montanari, mi permetta. Allora, questo è il piano a lungo termine, è sicuramente importante. Intanto c'è un'emergenza sostanziale in questo momento. Entro quando, e le chiedo due risposte brevi, entro quando contate di risolverla? Allora, il problema della situazione di transizione adesso e di criticità noi la risolviamo assolutamente in settimana, ma è causata da una mancanza e da una carenza di progettazione del passato. Va bene, questo l'abbiamo. Allora, entro venerdì città pulita, entro una settimana. Stiamo procedendo, diciamo, in modo anche abbastanza esteso. Oggi è mercoledì, quindi mercoledì prossimo ci risentiamo e la città è pulita. Io sono convinta che già per domenica siamo in grado di rispondere alle esigenze di avere una città pulita. Questo è il nostro obiettivo. Seconda domanda che le voglio fare: ci sono stati dei sabotaggi oppure no? Beh, certamente c'è stato un sabotaggio che è stato appunto denunciato diciamo da AMA, quindi la situazione è stata denunciata e quindi saranno gli organi competenti a stabilire che cosa è successo. Di fatto questo sabotaggio ha bloccato naturalmente uno degli impianti che a questo punto naturalmente ha potuto trattare meno rifiuti e in questo senso ha rallentato la raccolta. Però, come le dico, il nostro impegno molto concreto è nel garantire la raccolta in questa settimana, assolutamente, quindi tornare alla normalità e superando questo, perché io non vorrei che fosse dimenticato questo fatto. C'è stata un'azienda che è stata sottoposta a un'interdittiva antimafia e questo è stato da noi affrontato e risolto con una tempistica anche significativa. Certamente sono problematiche molto complesse e che vanno alle quali va data una risposta anche tecnica. Noi stiamo comunque monitorando la situazione, siamo vicini ai cittadini e proprio siamo vicini ai cittadini per monitorare la situazione, siamo vicini ai municipi e in effetti noi stiamo monitorando punto per punto la risoluzione di tutte le criticità. Di tutte le criticità. Allora vedremo che cosa succederà, magari ci risentiamo esattamente tra una settimana. Pinuccia Montanari, assessore all'ambiente del Comune di Roma, anche se la dicitura è un'altra, sostenibilità ambientale del Comune di Roma. Grazie Pinuccia Montanari per essere stata con noi. Ilaria Borletti Buitoni, sottosegretaria ai beni culturali, buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Allora, questa è una vicenda della quale ci siamo occupati spesso e sulla quale torniamo periodicamente. Prendiamo per un attimo un argomento un po' più leggero, anche se riguarda un fronte economico molto importante per il nostro paese, che è quello del turismo. Si stanno progettando tutta una serie di numeri chiusi, per così dire, no? A San Marco, a Venezia si sta ipotizzando, e ne abbiamo parlato, il conteggio delle persone per poi verificare se fare un accesso un po' più controllato. Se ne sta parlando per le Cinque Terre e nel frattempo ieri proprio a Roma è arrivata l'ipotesi dalla sindaca Virginia Raggi di far passare le persone davanti a Fontan di Trevi, di fare un percorso di transito, ok, nel quale le persone di fatto a Fontan di Trevi non si possono fermare ma passano, la guardano e se ne vanno. Che ne pensa, sottosegretario? Ma guarda, intanto premetto che per me sarebbe bellissimo che città, luoghi d'arte, fontane, piazze fossero luoghi aperti, quindi evidentemente sul concetto affronto tutte queste misure con il dispiacere ma anche con la necessità di dover affrontare una realtà. Io penso che l'eccesso di flusso turistico sia disastroso non solo per la popolazione che vive tuttora in questi luoghi, e vedi il caso di Venezia o anche il caso di Firenze, ma anche perché può provocare, come è successo anche per la Fontana di Trevi, dei danni o dei danni al patrimonio naturalistico, come succede per le Cinque Terre. Quindi necessariamente si dovrà parlare di contingentamento, necessariamente si dovrà parlare di misure che, capisco, non sono facili, perché è chiaro che chi viene a Roma viene per vedere la Fontana di Trevi anche, ma necessariamente si dovrà affrontare questo tema con delle misure concrete, perché penso che se noi proiettiamo i valori della crescita turistica sull'Italia nei prossimi 10 anni rischiamo poi di trovarci in un tunnel che sarebbe irreversibile. Una sorta di collasso per cui nemmeno i turisti si godono più le città, oltre ai cittadini. Nelle Cinque Terre, allora, c'è il progetto, ne abbiamo parlato col presidente del Parco delle Cinque Terre e probabilmente scatterà dal fine settimana del 2 giugno per contingentare il numero delle persone che passano sui sentieri. I sindaci nicchiano un po' e sembrano essere contrari, lo ha dichiarato pubblicamente il sindaco di Monterosso. Là lei mi sembra che sia favorevole, no? Ma sa, ripeto, sono delle necessità che nessuno di noi vorrebbe, però sono delle necessità. Io capisco quello che dice il sindaco di Monterosso quando dice i comuni vanno coinvolti, perché il caso di quel sito è di un sito che coinvolge più comuni, quindi chi li amministra è giusto che venga coinvolta. Però non credo che al direttore del parco di Cinque Terre o al sindaco Raggi o al sindaco di Venezia faccia piacere contingentare i turisti. Credo che lo facciano perché non c'è altra strada. Certo, perché come diceva prima lei, se no nessuno se la gode più. Un'ultima noi domanda. Abbiamo un patrimonio fragile, insomma, questo è visibile agli occhi di tutti. L'ultima domanda, su Fontan di Trevi, quell'ipotesi di creare una sorta di transito, no? Per cui sostanzialmente non ci si ferma, la convince oppure no? O è un'idea che dice no, insomma, stiamoci calmi, forse sarebbe meglio invece organizzare degli ingressi contingentati e così via? Credo che non sia facilissimo di organizzare degli ingressi contingentati perché è un punto di passaggio di tutti i tour che passano nel centro di Roma. Il nostro ufficio è in via del Collegio Romano, li vedo dal Pantheon, vanno alla Fontana dei Trevi e viceversa. Quindi probabilmente il fatto di creare un passaggio che acceleri il passaggio e quindi decongestioni la fontana facendo passare altre persone non è un'idea sbagliata. Io non sono una tecnica, ma mi sembra che sia sbagliato rifiutarla a priori. Poi sa, queste cose bisogna provarle. Perché come sempre sono certo. Cose che vanno poi sperimentate in un mese, in un giorno, in un weekend particolarmente affollato. E vedere se funziona. Mi sembra che altre soluzioni non ci siano, anche perché le vie d'accesso, se non ricordo male, sono 3 o 4, quindi sarebbe difficile chiuderle tutte e contingentare. Forse è più facile far scorrere il traffico. La ringrazio. Grazie sottosegretaria Borletti Buitoni per essere stata con noi. Le auguro una buona giornata. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati e poi ci ritroviamo. Oggi una puntata molto romana. Torneremo in zona e andremo a Pomezia per vedere un po' come la si sta vivendo in queste ore. Parleremo col direttore dell'AS per capire se ci sono delle risultanze ulteriori, appunto, anche dal punto di vista degli effetti sulle persone, sugli ortaggi, eccetera, eccetera, dell'incendio che si è sviluppato 5 giorni fa. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, sempre in diretta video anche sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno, così come su quella di Radio 24. I nostri titoli in fiamme: il camper di una famiglia Roma, morte 3 sorelle, la più piccola di 4 anni. Avevamo ricevuto minacce, raccontano i superstiti, e si indaga per omicidio volontario. Migranti, indagini su alcuni membri di una ONG, fa sapere la procura di Trapani. Salvataggi anche senza il controllo della Guardia Costiera, dicono. La misura colma, parola ai miei legali, parole di Maria Elena Boschi dopo l'indiscrezione su un suo interessamento perché Unicredit acquistasse Etruria. Ed è scontro negli Stati Uniti dopo che Trump ha silurato il capo dell'FBI, sospetti per il dossier sulla Russia, curati da Comey. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Effetto giorno, eccoci di nuovo, il nostro giro per l'Italia, come si diceva oggi, puntata molto romana o dei dintorni di Roma. Non manco di dirvi, perché un ascoltatore ce lo chiede, che no, non hanno ancora trovato Igor nelle campagne di Ferrara per la nostra rubrica Dov'è Igor? Lo stanno ancora cercando, il killer del barista di Budrio e di una guardia ecologica. Però andiamo, come si diceva, nei dintorni di Roma, andiamo a Pomezia, dove, e come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi e nelle ore scorse, c'è stato un rogo in un'azienda che era un deposito di rifiuti. Le cronache di queste ore ci raccontano che dopo la notizia che è stato trovato amianto nei resti dell'incendio, molti abitanti di Pomezia si stanno spaventando, alcuni stanno addirittura andando, sono comunque tappati in casa. Narcisio Mostarda, direttore generale dell'ASL Roma 6, buongiorno, eccoci. Buongiorno a voi. Allora, che rischi ci sono al momento? Siete in grado di identificarli, di fornirli oppure no? Ma guardi, in un contesto così debbo intanto rilevare che in tutte le istituzioni coinvolte stanno facendo un lavoro di grandissima e rigorosa valutazione proprio dei rischi. È il nostro compito, tutte le istituzioni sono attente a non dare né notizie con estrema superficialità, però neanche generare allarmismi. Ho sentito lei che diceva che i cittadini di Pomezia sono spaventati, tappati in casa. Bene, noi abbiamo trovato l'amianto. Il nostro intero paese negli anni passati ha costruito siti industriali con coperture di amianto, di cemento amianto. Noi abbiamo trovato esattamente le fibre di amianto nelle lastre ondulate di copertura di quell'opificio, di quel sito di stoccaggio dei rifiuti. Per cui lo abbiamo trovato dove sapevamo, avevamo ipotizzato che potesse esserci. Adesso stiamo monitorando se fosse presente fibra d'amianto dispersa nell'aria. Questa è un'altra cosa. Certo. Noi siamo moderatamente cauti, ma anche ottimisti. Saremo in grado di dare questi risultati e non ne faremo mistero già nella TAR nel tardo pomeriggio di oggi. Ah, ecco, questa è già un'informazione importante. Già nel tardo pomeriggio di oggi potrete dare qualche informazione. Sì. Ci aiuti a capire, quando va in fiamme un luogo nel quale, per esempio, c'è una copertura di amianto, le fiamme stesse possono far sì che, come dire, che le fibre di amianto si sprigionino nell'aria, o ci vuole qualcos'altro? O è la semplice distruzione di questa copertura di amianto che poi genera la dispersione delle fibre, che poi sono quelle pericolose? Ma diciamo che il calore, non sappiamo molto bene cosa accade ad alte temperature, ma l'amianto tende un po' come il vetro a cristallizzarsi, anzi paradossalmente potrebbe diventare ancora meno dispersibile a certe temperature. E questo è uno snodo interessante. Questo è un vantaggio per certi versi. Il problema è nella distruzione delle pareti di contenimento dell'opificio, del sito, sicuramente cosa accade? Meccanicamente cade giù la copertura. Ecco, la copertura, certo, che cade giù può frantumarsi ed eventualmente liberare, sprigionare dei frammenti. Questo potrebbe significare che dei frammenti che noi pure abbiamo trovato, ma li abbiamo trovati ovviamente circoscritti e localizzati all'interno del sito di stoccaggio. Vediamo cosa succede nell'aria. L'ultima domanda che ho, e le chiedo di essere brevissimo, Mostarda, perché devo andare a chiudere. Ci sono stati danni che abbiate registrato alle persone, visto che lei è anche direttore generale della ASL, qualcosa di grave? Guardi, nessun accesso nei pronto soccorsi, accesso significativo. Abbiamo avuto 6 o 7 persone che lamentavano, ovviamente qualcuno mal di gola, qualcuno bruciore agli occhi. La ringrazio. Sono state tempestivamente rimandate a casa. La ringrazio. Grazie a Narciso Mostarda, direttore generale della ASL Roma 6, Traffico Platero. Ci sentiamo alla fine per i saluti.